sono tirano si vero sono tirano si do dapertin solo niente solo in Italia asaura sei tu ricavo asaura sei tu Cause I got